cosa è questo amore? Così di colpo mi penetra in testa, mi stritola il cuore. E quando tutto sembra finire, quando mi sembra che tutto sia spento, mi accendo ancora e so di nuovo accarezzare, e so di nuovo soffrire, gioire, di nuovo amare. E mi manca il respiro e mi sembra di stare male, ma è bello star male. L'amore è forte, l'amore è bello, mi porta dolce una confusione dentro il cervello. Tutto gira, mi sento bene, sono sparite tutte le pene di questa terra. E mi sembra di poter volare, volare, volare, volare in alto e devore morire. Affannati, sussurri, pensieri confusi. Ed è quando alla fine, turbata, mi stringi per dire.